9 in punto. Ricordati! Mancano 3 giorni all'aumento dell'IVA. 3 giorni, e non sappiamo nemmeno se quest'IVA aumenterà oppure no. Allora, oggi è l'ultima puntata di 9 in punto, da lunedì ci sarà Giovanni Minoli, dalle 9 alle 11, quindi fatemi oggi mettere insieme un po' delle cose di cui abbiamo parlato in questi mesi che siamo stati insieme. Allora, l'IVA è un pretesto, se vogliamo, per ragionare un po' più a fondo su quello che è questo paese. Mentre il paese in questo momento si divide su pro Barilla contro Barilla, mentre i deputati del PDL minacciano le dimissioni, mentre il presidente del Consiglio italiano, chiunque sia e di qualunque parte politica sia, è in un viaggio ufficiale negli Stati Uniti, nel quale tra l'altro deve presentare l'attrattività del sistema paese, interviene all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, mentre succede tutto questo, vogliamo provare a ragionare un po' più a fondo del perché accadono queste cose, perché abbiamo questo grado di incertezza fiscale pazzesco, perché viviamo questa costante fibrillazione politica. È un problema solo italiano o non è un problema solo italiano? Qual è il punto? Il punto probabilmente è l'incapacità dell'Italia, ma anche di un pezzo del pianeta, non tutto a dire il vero, guardate cosa succede in Germania, per esempio. Come scherza ogni tanto David Parenzo alla Zanzara, in Germania lo fanno, come dice Grillo, l'incapacità di guardare nel medio-lungo termine, lo stare aggrappati, appesi a soluzioni di breve, dibattere su problemi che riguardano il prossimo mese, i famosi 4 miliardi che servivano entro la fine del mese, dei quali sento parlare ancora poco, perché poi c'è anche la seconda rata IMU. Non c'è la capacità di immaginarsi il paese come può essere tra 10 anni e iniziare a disegnarlo. È di questo che vogliamo parlare, anche se l'argomento può sembrare alto, in realtà è il vero cuore della politica. Quindi, come vi dicevo, come sapete, questo è un tema che ho toccato più di una volta, che abbiamo toccato soprattutto durante la campagna elettorale, perché era quello che mi interessava. Non ho sentito poche cose convincenti, in tutta sincerità, da questo punto di vista. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Oggi vi voglio sentire in tanti su questo tema, per carità di Dio. Andrea Zucchi, imprenditore, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Che è stato già ospite di Radio 24, perché faceva parte, o meglio, si è messo alla testa di un gruppo di 500 imprenditori che diceva, insomma, lasciamo questo paese, non se ne può più. Al punto, naturalmente, per carità, è sempre questa pazzesca pressione fiscale che abbiamo, un total tax rate tra i più alti al mondo, sicuramente il più alto tra i paesi dell'OCSE, e però è anche una questione di poter programmare qualcosa, perché il punto è esattamente questo. Se tu sei in un paese che ha 3 giorni da un aumento di un punto della tassa dell'IVA, dell'imposta sul valore aggiunto, non sa se l'aumenterà oppure no, se la rinvierà di 3 mesi, o se la farà aumentare, o se la eliminerà questo aumento definitivamente, come fai a pensare di investire? Come fai a pensare di contrarre un mutuo? C'è, Zucchi, da questo punto di vista, un problema, no? Certo che è un problema. E come la mette lei, mi verrebbe da fare una battuta, perché sembrerebbe, effettivamente, le dico francamente, è la mia opinione, che il problema dell'Italia dal 92 a oggi, perché non è un fatto di poco tempo, non è più né politico né economico, perché politica ed economia, così come sono ridotte, sono la conseguenza naturale di una sindrome collettiva di stampo squisitamente psichiatrico. Cioè, gli italiani ormai sono vittime di una sindrome di Stoccolma nel confronto delle proprie inefficaci istituzioni statali. Io faccio seminari di orientamento al business internazionale per gli imprenditori e parto dalla teoria della stupidità di Carlo Cipolla, che con decenni di anticipo ha descritto quello che accade oggi. Sì, seminari sul business internazionale vuol dire che aiuta le imprese a lasciare questo paese, nella sostanza. Sì, noi abbiamo agenzie nel mondo specializzate nelle medie aziende italiane all'export, e portafoglio un imprenditore italiano, specie se medio piccolo, è un'azione che parte da una riconversione proprio di orientamento mentale dell'imprenditore, che ormai è stato deformato dal sistema Italia a una situazione folle, ad accettare tutta una serie di situazioni che non hanno nessun senso nel business e che per fortuna fuori non vengono nemmeno considerate. Qui abbiamo un sistema allo sbando nel quale più entità agiscono e ognuna di queste entità ha propri obiettivi a breve, di mera sopravvivenza o di puro saccheggio. Questi sistemi sommati risultano fatalmente da una somma perfettamente stupida, dato che nessuno ha obiettivi complessivi. Allora, Sofia Ventura, docente di scienza politica all'Università di Bologna, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, io già lo citavo in apertura, nell'anteprima della trasmissione. Tra poco ci raggiungerà qua in studio Cristian Rocca, che è a capo di Il, che è il magazine del Sole 24 Ore, che io vi consiglio non perché è del mio gruppo editoriale, ma perché è una rivista intelligente che con degli spunti molto interessanti, e che questo mese ha una copertina nella quale ci sono una serie di parole, un numero infinito di parole, e quella che spicca sotto in basso è ingovernabile. Ci si riferisce al mondo, ma naturalmente, Ventura, noi non possiamo che pensare al nostro paese, a questa vita in costante emergenza. Se vogliamo, ne abbiamo trattato anche in settimana, in una sorta di eterno presente, no? Sì, anche se appunto giustamente la copertina di Il ci racconta di un mondo ingovernabile, e venendo diciamo una dimensione più piccola ma un po' più grande dell'Italia, sicuramente è un problema che riguarda anche altre democrazie occidentali, democrazie europee in particolare. Il caso degli Stati Uniti è un po' a parte, anche perché stanno dimostrando una capacità di reazione molto diversa, anche perché è un sistema istituzionale ed economico molto, molto diverso da quello delle democrazie europee. E sicuramente noi diciamo siamo forse un po' il fanalino di coda di un'Europa che però è in difficoltà, perché comunque sta affrontando delle sfide nuove, cioè sostanzialmente una crisi economica che però si innesta su una crisi del welfare state, che in qualche modo ha dominato per un secolo e che i vari paesi europei stentano ad affrontare. Ci riesce molto meglio la Germania, anche perché ha comunque un sistema anche di collaborazione tra le forze politiche e economiche diverso da quello degli altri paesi, ma pensiamo anche alla Francia, che ha un sistema istituzionale comunque tutto sommato molto solido, ma che oggi si trova in gravi difficoltà, proprio perché si tratta di rivedere alla radice un sistema di distribuzione di welfare, di un sistema sociale che ormai non funziona più e costa troppo, e che tra l'altro diciamo la cui crisi sta anche provocando dei sommovimenti politici importanti. Pensiamo allo sviluppo dei populismi, quindi la crisi del welfare, che vuol dire anche l'impoverimento, che si sposa con un'immigrazione sempre più pressante da paesi ex europei, sono tutti fattori che rendono difficile la governabilità, anche perché i grandi partiti tradizionali, come è stato notato anche da diversi studiosi, hanno difficoltà a reinventare nuove ricette. In questa situazione l'Italia sicuramente è quella che produce le peggiori performance a livello europeo, almeno tra le grandi democrazie, perché comunque ha un sistema politico istituzionale che non funziona. Molto. E qui c'è, adesso magari poi insomma non voglio farla troppo lunga, penso che i vari punti li affronteremo, però qui c'è un po' un problema che spesso sfugge, cioè molto spesso si dice dobbiamo prima affrontare problemi più urgenti, quelli che l'opinione pubblica sente come più urgenti, quindi problemi delle riforme economiche eccetera, ma fino a che noi non avremo istituzioni in grado di produrre governi stabili, ma non la stabilità di cui parla Letta, che è più che altro un po' un immobilismo paludoso, ma una stabilità che vuol dire governi che durano ma hanno anche la forza di governare e di rompere quei veti del sistema corporativo italiano. Quindi questo, diciamo, partendo dall'alto, come si diceva, un po' il problema italiano, istituzioni deboli che non vengono mai riformate perché c'è sempre qualche problema più importante, non si riflette mai seriamente sulle istituzioni, anche se oggi abbiamo avuto appunto risultato. Io non so, guardi, professoressa Ventura, per carità, poi la studiosa è lei, però io l'ascolto e continuo a non capire se sia una questione di uovo o di gallina, ecco, per chiarirci, perché in tutta sincerità, insomma, non so se è una questione di sistema politico istituzionale, se è una questione, se vogliamo, di quanto molto semplicemente corre l'informazione, no? E quindi questa necessità continua della politica di dare risposte immediate ai cittadini, e quanto alla fine sia anche un problema nostro di scarsa attenzione al medio-lungo termine, no? Questo vivere in un eterno presente che lo abbiamo citato proprio la settimana scorsa, non so se l'abbiamo citato oppure no, però era una roba che scriveva già Leopardi, se non sbaglio, nella prima metà dell'Ottocento. Iniziamo da qualche ascoltatore, va? Allora, mentre ci scrive Giulio, mi dice: Spezia, sto piangendo, qua non si sa più cosa fare e come muoversi, io non voglio vivere in un paese così con tutto quello che lavoro ogni giorno. E mi sembra, Giulio, che qua lei colga il punto, perché il tema non è tanto né il tax rate, appunto, la pressione fiscale, né appunto anche il sistema politico istituzionale, ma la mia impressione è che sia proprio l'assenza di prospettiva, la difficoltà a vedere il futuro, a vedere che cosa succederà nei prossimi 3 mesi, e questa forse è la vera prospettiva che manca alla politica. Voglio iniziare a sentire qualche ascoltatore. Iniziamo da Daniele, dalla provincia di Cremona. Buongiorno Daniele. Daniele? È con noi Daniele? No. Sono pronto. Eccolo qua. Oh. No, io vorrei dire che ormai il futuro non abbiamo noi. Con questa classe politica non possiamo portare un futuro, non c'è mai dialogo, a loro non me ne frega nulla il problema della gente. Finché ci sia il signor Berlusconi qua, non ci sarà mai dialogo, perché lui non dialoga né con la Confindustria, non dialoga né con il sindacato, non dialoga con nessuno qua. Finché ci sia questa classe politica, non ne possiamo parlare di futuro, non ne possiamo parlare nulla, finché c'è questa classe politica. La vedo dura, è nera la situazione. Daniele, allora, Daniele, io capisco bene il ragionamento, però io c'è una cosa che mi sento di dire sempre quando sento questi discorsi sulla politica, è che in tutta sincerità le persone che vanno in Parlamento e poi vanno al governo non è che le vota qualcuno di diverso agli italiani, perché poi poniamoci anche questo problema una buona volta nella vita. Croce dalla provincia di Grosseto, buongiorno. Croce è il nome di battesimo? Sì, il nome di battesimo. Buongiorno. Prego, buongiorno. Senta, io due cose volevo dire. Una è questa, dottor Foglia. Spezia, diciamo un altro tipo di vegetale, se vogliamo, cioè non lo so, la metta come vuole. Prego, prego. Racconto tutte le mattine. No, ma non si preoccupi, non c'è problema. Vada. Io ho conosciuto casualmente una persona che lei ha intervistato, non so se lei si ricorda, quell'industriale di Cuneo che cammina. Come no? Io l'ho conosciuto, è venuto a dormire da me. Ah, l'hai invitato a casa, fantastico. No, io ho nella zona di Grosseto un piccolo bed and breakfast, oltre al lavoro che faccio. E praticamente lui, pochi giorni fa, perché noi ogni tanto ci sentiamo telefonicamente, mi disse, dice adesso ricomincio a camminare, però mentre l'altra volta lui cercava di portare una ventata di ottimismo, dice io adesso vedo che i nostri politici non fanno più niente, pensano solo a loro stessi, ai loro fabbisogni, e qui l'Italia va a rotoli. Mi ha detto proprio testualmente: se continua così, tempo 6 mesi, l'Italia andrà in default, cioè non potrà restituire il debito. Secondo, un'altra cosa, hanno parlato, si parla da anni di abbattere la spesa pubblica, che è improduttiva, la spesa pubblica che è improduttiva, invece qui aumentano solo le tasse. Io personalmente, per esempio, io non ce la faccio più. Proprio non ci si fa più ad andare avanti. Lei consideri che io faccio il rappresentante, prima spendevo sui 200-250 euro al mese di benzina, oggi ne spendo 4,50, con la cosa che si raccoglie molto meno di quanto si raccoglieva prima. Allora Croce, le voglio dire una cosa, poi su questo voglio sentire Andrea Zucchi, perché poi ieri ci siamo sentiti prima della trasmissione, ci siamo fatti una chiacchierata. Le dico questo, allora, io propendo più per questo lato, no? Un po' di taglio della spesa pubblica, un po' di pulizia, per carità. Però ci sono due scuole di pensiero qua, no? Una è questa, una è per un taglio drastico e netto della spesa pubblica, e un'altra che secondo la quale questo taglio della spesa pubblica non si deve fare e la spesa, aperte virgolette, si deve riqualificare. Allora, sono due scuole che hanno entrambe una dignità, naturalmente. Il problema è impostare una strategia, cioè che tu decida dove vuoi andare. Zucchi, io so che lei propende più dalla parte del taglio della spesa, naturalmente, però voglio dire, il punto è proprio quello, il punto è non avere una strategia. Sono d'accordo su molte cose che ha detto, sicuramente una strategia è meglio di nessuna strategia, anche se è una strategia inefficace o non perfetta. Sono d'accordo sul fatto che la classe politica rappresenti fedelmente la nazione, infatti l'Italia è spacciata non perché ha una classe dirigente pessima, ma perché pensa cose autolesioniste. Quando noi diciamo che la classe politica deve agire sui problemi sentiti come più urgenti dall'opinione pubblica, è avallare questa visione nel breve. L'opinione pubblica è fatta di visioni a breve, perché però di visioni a breve vivono i bambini e i disperati. La visione a breve rende inutile avere un governo. Il governo è fatto, lo Stato esiste, ha senso per visioni a lungo termine. Cioè, gli esseri umani si dotano di istituzioni perché nel loro affanno quotidiano magari non riescono a darsi una direzione. E lei che è un liberale di quelli cattivi dice, cattivi aperte virgolette, dice se lo Stato ragiona a breve termine, a sto punto è inutile lo Stato. Sì, vabbè, lei sa che il peggio è la dimostrazione matematica reale che 2 anni senza governo sono migliorati tutti i numeri della nazione, per cui purtroppo abbiamo anche le dimostrazioni scientifiche, ma non c'è attinenza tra le cose concrete e quello che si dice in Italia. Io qualcosina ho capito, sono 2 anni che giro un po' il mondo e che suscito l'ilarità dei miei interlocutori ogni volta che mi esprimo usando gli schemi mentali con i quali sono stato deformato nella nazione d'origine, perché noi pensiamo cose che sono perfettamente assurde, anche questa cosa francamente della pari dignità alle idee, sì, ma nel pratico, se il 100% degli investitori mondiali ti dicono che finché non tagli la spesa col pifero che vengo a spendere un centesimo nel tuo paese, non è che hai scelta tra le furbate, la domanda aggregata, che sono delle sciocchezze, che sono di una dimensione gigantesca. Non si può continuare a ragionare di queste cose qui. Se hanno fatto la scuola sbagliata, cerchiamo qualcuno che sappia come si fanno le cose. Cioè, questi non hanno mai creato un posto di lavoro in vita loro, non hanno mai generato un centesimo di ricchezza. Dal 79 a oggi, da quando è stata fatta, impostata la nostra normativa sul lavoro, la filosofia, la giurisdizione sul lavoro, la grande impresa se n'è andata da questo paese. Hanno tutti detto, a queste condizioni, o i soldi me li dai tu, o io non faccio imprese in questo paese. Allora, Zucchi, ora devo interrompere. Aspetti, si fermi, perché abbiamo una pausa. Intanto saluto Cristian Rocca, che in un tourbillon di ospitate televisive stamattina alla Sky TG24 ci ha raggiunto un po' più tardi. Cristian, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno a voi. Benvenuto. Una pausa, ci troviamo tra un attimo e voglio ripartire dagli ascoltatori, poi risentiremo la professoressa Ventura, perché poi anche lei ci deve lasciare, insomma la gente viene qua ospite, ma poi c'è anche un mestiere e deve fare il suo mestiere di docente universitaria, tra un attimo. 9 in punto. Giustiniano da Torino, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Spezia. Non sono dottore, prego comunque. Ma vabbè. Senta, io volevo fare questa riflessione con lei, sono assolutamente d'accordo che siamo un paese che non è capace a fare strategia, noi viviamo di tattica, viviamo gli eventi e non lavoriamo per processi. Deve succedere qualcosa, allora viviamo il qui e ora, ma non ragioniamo, perché questo prevede semplicemente, credo, l'assunzione di responsabilità. Ieri sera sono stato un bellissimo convegno sui talenti, tutti parlavano i talenti qua e i talenti là, ma mi sono chiesto, ma come fa uno a fidarsi di un paese che non ha un minimo di visione, non garantisce un minimo di strategia? Per forza la gente se ne va e non crede più a nulla. Concludo dicendo che peraltro quelli che sono al governo li votiamo noi, quindi non è che dobbiamo scandalizzarci per quello che fanno. Sono impressionato da queste cose. Io su quest'ultimo punto sono molto d'accordo, Giustiniano. Allora, Cristian Rocca, però non è, allora, da noi è particolarmente accentuato questo problema, però non è un problema solamente italiano in realtà. No, però dal tono di queste telefonate, sobrio ma diciamo decisamente pessimista, insomma la mattina comincia non benissimo per chi ascolta la trasmissione, perché oggettivamente la situazione è questa. Io ho esperienza di un posto diverso, che sono gli Stati Uniti, dove però la situazione, nonostante la crisi, non c'è questo pessimismo di fondo, c'è in qualche modo l'idea che ce la si possa fare, che ce la si debba fare, non c'è questo fatalismo che purtroppo ormai ha preso e si è diffuso in tutto il paese, ovunque, in tutte le zone, anche diciamo nella operosa Lombardia. Quindi la situazione mi sembra davvero tragica. Ecco, però ci diceva Giustiniano, no? Lavoriamo, io concordo in pieno, lavoriamo sulla tattica e non abbiamo strategia. Questo, se vogliamo, è anche un portato di come funziona il pianeta in questo momento, insomma, no? Cioè, si richiedono decisioni rapide a fronte di informazioni che corrono sempre di più. Sì, diciamo che dalla crisi in Siria al caos italiano sulla vicenda, diciamo, di questi giorni, le dimissioni di uno dei due partiti di governo, la situazione è evidente che c'è questa ingovernabilità del mondo a tutti i livelli, a livello transnazionale ma anche a livello nazionale, che nasce proprio dal fatto che le istituzioni non sono più adeguate al tempo. Tu parlavi appunto della diffusione delle notizie. Le notizie accadono e si commentano, e il precipitato di queste notizie è istantaneo, in tempo reale, su Twitter, sui social network. E già 20 minuti dopo, se chi è al governo non ha preso una decisione chiara con effetti pratici, sembra che questo governo, nonostante tutte le buone intenzioni, non sia capace di guidare il qualsiasi tipo di organizzazione. E questo fa sì che cresce ovviamente la disaffezione nei confronti delle istituzioni, cresce la rabbia, cioè non possono più funzionare delle istituzioni che hanno i tempi, le liturgie, diciamo, create 200 anni fa o nel nostro caso 60 anni fa. Cioè non esiste più la possibilità che un governo si possa riunire soltanto il venerdì mattina. Ma perché il venerdì mattina? Il giovedì e il venerdì, certo, hanno anche altre cose da fare, ma la situazione, i tempi richiedono delle decisioni e delle scelte più veloce. E questo ci deve interrogare anche su quello che diceva la professoressa Ventura, che adesso richiamo in causa. Intanto saluto Antonio Bertolotto, amministratore delegato di Marco Polo Environmental, che... Buongiorno Bertolotto. Buongiorno signor Spezia, come sta? Bene, bene, tutto a posto. Bentornato. È stato evocato, non stava sentendo la trasmissione, la stava sentendo o no? No, è stato evocato perché un signore di Grosseto ha detto: io in questa sua camminata di Bertolotto per l'Italia l'ho ospitato nel mio bed and breakfast. Adesso veniamo da lei, anzi prima dall'avventura e poi da lei. Voglio solo dire una cosa ad un ascoltatore, Giuseppe, che ci scrive. Dice: io mi vergogno a telefonare e me ne scuso, non è neanche un problema di classe politica, il problema non cambia se cambiano i governi, è il sistema nella sua totalità che non funziona. Sono passato da imprenditore a non avere 5 euro in tasca e vivere di piccoli aiuti, e non sono pochi come me. Diventi un appestato e nessuno vuole darti una mano, molto peggio di chi arriva in Italia via mare, e questo dopo 30 anni di impresa. Che Dio ci aiuti. Allora Giuseppe, io le posso dire che da noi non viene trattato come un appestato, non si vergogni, se vuole chiamarci ci chiami, altrimenti insomma non importa, però Il fallimento, come si dice anche se in questo paese è un po' più complicato, è il primo passo per rialzarsi. Coraggio. Allora, Ventura, lei in realtà io la devo far rispondere a me, che le dicevo, e se vuole anche a Giuseppe, che le dicevo, è un problema sì di sistema politico istituzionale, però non è solamente un sistema... un problema di politica, di sistema politico istituzionale, anche un problema di, se vuole, di come è strutturato il paese, di come è fatto. Ma sì, lei citava Leopardi, ma potremmo andare ancora più indietro, cioè il problema dell'uovo e della gallina ovviamente è irrisolvibile, si potrebbe risalire ai tempi in cui era in voga la frase Francia o Spagna purché se magna, che purtroppo racconta molto della storia italiana. Ciò detto però, e mi ricollego anche a quello che diceva Christian Rocca, il punto è come si esce da una situazione del genere, o comunque quali sono le cause più rinvenibili di questa situazione sulle quali si può agire, perché poi noi possiamo parlare anche della cultura politica italiana, ma per cambiarla ci vorrebbero decenni e secoli, quindi su che cosa possiamo ragionare? Noi possiamo ragionare sul sistema di regole che ci diamo. E allora bisognerebbe pensare che se in questo momento, in questa fase di crisi globale, noi ci rendiamo conto di quanto appunto la politica sia in affanno, rincorra l'oggi, però questo purtroppo è un dato strutturale della politica italiana. In realtà se al di là del primo ventennio della Repubblica, che è stato un ventennio comunque di crescita, di riforma, un ventennio prosperoso, poi però l'Italia ha cominciato ad essere un paese nel quale si viveva sempre di più alla giornata, il sistema ha retto perché ha costruito il debito pubblico sostanzialmente, cioè ha distribuito risorse, e poi si è arrivati a un punto all'inizio degli anni 90 in cui non solo per Mani Pulite, tutto quello che sappiamo, ma proprio perché il sistema economicamente non poteva più reggere, tutto è saltato. Però questo vivere la giornata non è solo una storia di oggi, oggi ce ne rendiamo conto in maniera ancora più drammatica. Perché si vive alla giornata? Per tanti motivi, però quelli sui quali noi possiamo ragionare, perché possiamo intervenire, sono proprio quelli di come noi abbiamo costruito le regole per stare insieme, cioè nel momento in cui noi abbiamo costruito un sistema con dei governi che non sono fatti per governare, e addirittura in questo momento stiamo anche in qualche modo liquidando una delle poche eredità positive di questo ventennio, cioè il sistema bipolare, che è un sistema che rafforza comunque le leadership e i governi, difficilmente possiamo pensare di produrre sia istituzioni, sia decisioni, sia classe politica che riesca a pensare a qualcosa che vada oltre l'immediato. Con una prospettiva, cioè, lei dice. Con sì, una perché il governo Letta è nato proprio, in qualche modo poteva avere l'ambizione di guardare un po' oltre, però quello che si nota è che ha fatto una scelta, Letta e il suo governo, hanno fatto una scelta, quella proprio della semplice sopravvivenza, perché? Perché in qualche modo sono depositari di un modo di fare politica che però è vecchio di decenni, cioè quel modo di esistere giorno per giorno, e si vede anche il tipo di provvedimenti che avanzano, sui quali discutono, l'IMU, l'IVA, no? Si diceva all'inizio un punto di IVA in più, in meno, cioè pezze, sostanzialmente pezze che vengono messe senza una prospettiva. Quello che diceva Christian Rocca è molto interessante, perché lui diceva giustamente, e questo non solo in Italia ma a livello globale, le notizie arrivano in continuazione, l'opinione pubblica chiede risposte immediate, ma al tempo stesso non solo le notizie arrivano in continuazione, i problemi arrivano in continuazione e in modo molto veloce, e dunque le istituzioni appaiono inadeguate, sicuramente le istituzioni internazionali ma anche quelle nazionali. Quindi che cosa può rendere adeguate le istituzioni nazionali? La capacità di produrre gruppi dirigenti e leadership capaci di rispondere in maniera efficace e veloce, ma non appunto con lo spirito del governo italiano di oggi, cioè mettere delle pezze, ma dando delle risposte sicuramente legate alla contingenza, ma che stanno dentro a una visione, a un progetto, a un'idea di economia. Si diceva prima, sì, meglio avere comunque una strategia più o meno efficace che non averla. Sì. E il problema è questo, quindi, e quindi fino a che noi non abbiamo istituzioni e anche partiti che siano in grado di costruire leadership di questo tipo, perché in Italia ma anche in Europa il problema è un problema di leadership. La Germania, tra diciamo i tanti attu positivi che ha i tanti ASP ha anche una leadership forte, perché è anche un sistema che costruisce lì. Perfetto, perfetto. Professoressa Ventura, io la ringrazio, mi sembra chiarissimo, e la lascio al suo laureando, giusto? No, a tante altre beghe universitarie. Buona giornata. Buona giornata, grazie. Salve. Allora, abbiamo una pausa per la viabilità. Prima un messaggio che mi arriva su Twitter. Li votiamo noi, ma la scelta è tra un Varen vecchio, un puro sangue malato e un giovane cavallo imbizzarrito. Posso vincere, mi scrive un Beruto. Vabbè, questa non è malissimo. 9 in punto. Antonio Bertolotto, allora mi è diventato pessimista. Ma guardi, in un paese dove non c'è programmazione, cosa... Cioè, noi operatori, io sono un imprenditore. Ma no, ma io la chiamo perché mi deve portare la nota positiva in trasmissione. Bertolotto, sia buono, su. La nota positiva è che bisogna cambiare il mercato del lavoro, partiamo da lì, perché non abbiamo un lavoro. E io intanto vorrei spendere una parola per il signor Giuseppe che vive un momento particolare. Io, scusatemi il termine, sono andato del culo 30 anni fa, ho perso tutto. Non ero fallimento perché era una cooperativa agricola, però essendo fiduciario di questa cooperativa abbiamo perso tutto. Signor Giuseppe, abbracci questa croce che il Signore le dà, accetti queste mie parole, vada in chiesa, preghi e vedrà che la Divina Provvidenza provvede. Bertolotto, la prego però. Io capisco, però insomma la prego. Su. Cambiamo le regole, partiamo da subito con le regole che ha fatto la Fornero, iniziamo subito a modificarle, attiviamo quel mini job, io dei Sassi a Spezia mesi fa gli dissi, e poi ho visto che ultimamente qualcuno comincia a parlarne. Noi possiamo creare non 1 milione, fino a 3 milioni di posti di lavoro col minijob. La Germania ha 7.400.000 persone che vivono col minijob. Schröder lo fece nel 2003 con 400 euro al mese per 20 ore settimanale, e la Merkel l'ha ripreso nel 2012 aumentando sì. Le 50. Sì, per far questo Bertolotto però ci vuole qualcuno che si prenda il carico, ammesso che sia la soluzione giusta, io su questo non entro, però ci vuole qualcuno che si prenda, come ha fatto l'SPD, il carico di questa decisione e poi decida di morire politicamente per i successivi 15 anni, che non è facile, cioè, dico, ci vuole fegato e ci vuole anche idea di programmazione, Christian, no? Ci vogliono leader. Signor Spezia, ci vado io. Si può candidare alle primarie del PD. Si può candidare alle primarie, esatto. Un partito, no, si candidi, Bertolotto, si candidi alle primarie del PD. Mi candido. Ma il PD non lo sente. No, secondo me no. Allora, sentiamo qualche altro ascoltatore. Riccardo, dalla provincia di Padova, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Prego. Senta, io sono un piccolo imprenditore qua alla provincia di Padova. Circa 4 anni fa ho fatto domanda per avere un ampliamento del capannone dove io lavoro. Mi ci sono voluti 4 anni per avere, l'approvazione da parte della Regione Venezia per la costruzione del capannone. Fatto ciò, con 45.000 euro di progetti, perché me ne hanno bocciati 4, adesso devo pagare come oneri primari e secondari al mio comune altri 28.000 euro. Quindi solo per abitare fuori capannone. Buono Riccardo, quanto fattura l'azienda? L'azienda, diciamo che come ha fatturato non è male, per fortuna, il lavoro mi va abbastanza bene. Mi dia una dimensione, più o meno, nel range? Saremo su circa 250.000 euro. 250.000 euro e 60.000, quanti? 70.000 che se ne vanno per ampliare un capannone. Sì. Purtroppo questa è la burocrazia, si figuri che il primo progetto mi è stato bocciato, al quarto progetto mi hanno detto che poteva andare bene come era stato presentato il primo progetto. Quindi 4 anni di lavoro perso, perfettamente inutile. La burocrazia che abbiamo qua in Italia. Perfettamente inutile. Brevissimo, Daniele dalla provincia di Cremona. No, quello che ho sentito che 4 anni ci mettono per andare, guarda, è una cosa vergognosa. No, su quello che le dicevo, che della classe politica ormai lasciamo perdere. Ma lei è già intervenuto prima, perché me l'hanno rimessa là? No, è perché ha caduto la linea, hai capito? Allora non ho finito di parlare. Allora io volevo No. Avevamo sentito. No, in realtà avevamo sentito abbastanza. Grazie Daniele, mi scusi, Ettore da Torino, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, forse io sarò ignorante, no? Sono impensionato, ma ne ho 64 anni, insomma, non è che sia troppo vecchio, non penso. L'aumento dell'IVA, parlano tutti dell'1%, questo aumento, ma le aziende l'hanno già recepito e hanno già aumentato i prezzi. Se va in autostrada il caffè da 1 è passato a 1,05 euro, quello non sarà Però almeno se aumentano l'IVA dell'1% e non lo fanno poi pagare solo a una parte, perché poi le aziende locali riversano comunque gli aumenti del denaro che non riescono a ricevere dallo Stato centrale sulle tasse locali. E quindi non so, almeno l'aumento dell'IVA lo pagherebbero tutti i consumatori. Ettore, è sempre quella, la questione è sempre quella, è una questione di programmazione. Se tu hai una strategia dal punto di vista fiscale, riesci a gestire queste cose con una certa serenità. Per cui se dici sì, aumento l'IVA, però la mia prospettiva è ridurre nel tot di anni, per esempio, il costo del lavoro, a quel punto è una strategia, ha una parvenza di strategia passare il famoso discorso che faceva anche Tremonti, dalle persone alle cose, insomma, la tassazione dalle persone alle cose, come del resto ce lo chiede l'Europa, come si usa dire. Allora, siamo praticamente in chiusura. Io ringrazio Cristian Rocca e vi raccomando di comprare il magazine del Sole 24 Ore, dove trovate tante riflessioni anche e non solo sui temi che abbiamo toccato oggi. Grazie Cristian e buona giornata. Grazie. Allora, grazie a Antonio Bertolotto, amministratore delegato di Marco Polo Environmental, per essere stato con noi. Ringrazio tutti gli ascoltatori che non sono riuscito a far intervenire in realtà in tutti questi mesi, quindi allora lasciatemi un paio di minuti di tanto siamo in fascia protetta, ma i bambini dovrebbero essere a scuola, lasciatemi due minuti di pippone finale di ringraziamenti. Un ringraziamento a Laura Faggini in redazione, ad Alessandro Marco Tulli che mi ha seguito in realtà per gran parte di questi mesi, Carmelo Lauricella è stato quasi sempre lui per 9 in punto in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, vi ricordo ancora che cosa succede da lunedì. Inizia una nuova trasmissione, si chiama Mix 24, il conduttore e realizzatore di questa trasmissione è Giovanni Minoli, andrà in onda dalle 9 alle 11 nella prima parte più strettamente di attualità, e come avete sentito dal promo invece dalle 10 alle 11 ci sarà una parte che sarà sostanzialmente un racconto di storia anche con documenti esclusivi come avete sentito. Per quanto mi riguarda, mi trovate come sempre, e questo lo sapete ormai perché ho una certa, sono addicted come si dice, mi trovate sui social network, Simone Spezia su Twitter, si scrive Spetia, c'è qualcuno che mi chiede come posso scrivere eccetera, è simone.spetia@radio24.it, molto semplice, col 24 al numero, oppure 9in.radio24.it se volete scrivere a quel che resta della trasmissione. Per quanto mi riguarda, mi ritrovate dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, la trasmissione si chiama Effetto Giorno, è una trasmissione di attualità che conterrà al suo interno anche un giornale radio, avrete le notizie in tempo reale, approfondimenti, informazioni, e ci sarà anche uno spazio dagli Stati Uniti gestito da Mario Platero. Il lunedì e il venerdì le inchieste di Daniele Biacchessi. L'interazione non sarà più col telefono, ma appunto ci sono i social, ci sono le mail, potete scrivermi, nessun problema. Grazie a tutti, è stato un piacere e ci sentiamo lunedì dalle 13 alle 14, ma riaccendete la radio alle 9 che c'è Giovanni Minoli. Ci sentiamo lunedì. Ricordati! Mancano 3 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.